Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Quel campo lontano. Good times for a change. Nel 1952 la storia si sovrappose al mondo immaginario di Alexander Wedderburn. So please, please, please, let me, let me, let me, let me get what I want this time. Quando il re morì, il dramma di Alexander era praticamente finito, perciò in seguito ebbe sempre difficoltà a fare chiarezza con gli altri sul reale ordine cronologico delle due cose, la sua scelta di temi e la coincidenza di quella morte. La sua opera venne spesso erroneamente considerata come una rievocazione storica, commissionata dal festival per celebrare la donazione del castello di Longroyston all'Università del North Yorkshire. Lo stesso festival fu di certo programmato in modo da coincidere con una manifestazione di fervore culturale nazionale in atto nei parchi e nei giardini di tutto il paese per celebrare l'incoronazione. Se il dramma di Alexander non fosse esistito, lo si sarebbe dovuto inventare. Per fortuna era già lì. Da principio egli era stato ingenuamente ossessionato dall'idea di rinnovare la lingua, e in particolare quella del dramma in versi. La cosa era nell'aria. C'erano Eliot e Fry. Quando era studente a Oxford, Alexander aveva deciso che il problema era Shakespeare. Era stato, in un certo senso, così grande che aveva reso quasi impossibile scrivere un buon dramma in versi dopo di lui. E così i drammaturghi o erano follemente ossessionati dall'innovazione in sé, oppure si ritrovavano involontariamente a scrivere insipide imitazioni di Shakespeare. A un certo punto, Alexander aveva pensato che una soluzione potesse essere prendere, per così dire, di petto Shakespeare. Più tardi, per ragioni personali ed estetiche, aveva accantonato Shakespeare per concentrarsi sulla regina. Aspirava a un vigoroso realismo e invece dovette fare i conti con una naturale propensione dell'opera al pastiche e alla parodia. Impiegò diversi anni a scriverla, con varie interruzioni, anni di amorevole ricerca, sperimentazione formale, disperazione, visioni. A quel tempo era professore, vice direttore del Dipartimento di Lingua e Letteratura Inglese al College di Blessford Ride, nel distretto settentrionale della contea dello Yorkshire. E quasi senza volerlo, mentre rivedeva i suoi versi durante la sorveglianza a un test di biologia, si rese conto di essere giunto al termine. Il dramma era finito. Non poteva fare di più. Non sapeva cos'altro fare senza la speranza, l'ossessione, la gabbia trasparente di ritmi musicali e mutevoli forme nella quale si era mosso fino ad allora. Ripose il testo in un cassetto, ve lo lasciò per un mese, durante il quale il re morì, e poi lo consegnò a Matthew Crowe. E fu Matthew Crowe a dare al dramma di Alexander, letteralmente, un domicilio locale e concretezza culturale finanziaria. Crowe viveva a Longroyston, un edificio quasi un castello, realizzato come abitazione e per rappresentanza, ma soprattutto come abitazione. Alexander era già debitore nei confronti di Crowe, impresario e patrono naturale delle arti. Era stato Crowe a programmare una breve serie di repliche al Teatro dell'Arte della prima opera di Alexander, Artisti di strada, di cui adesso Alexander si vergognava un po', poiché le sue recenti aspirazioni a un audace realismo lo avevano definitivamente convinto che il dramma sul dramma e il dramma sugli attori fossero uno dei segni della generalizzata debolezza del teatro contemporaneo. Crowe offriva alla vita sociale di Alexander il lato più brillante e vitale, fuori da Blessford Ride. Strenuo sostenitore della cultura locale, l'impegno locale, il talento locale, malgrado una breve carriera giovanile come regista nel West End, trascorreva adesso il suo tempo organizzando festival e cicli di rappresentazioni in chiese, sale da concerti, capannoni agricoli. Era, diceva, un pesce grosso in uno stagno piuttosto piccolo. Era ricco. Di rado si recava al sud. Dopo aver letto il dramma, invitò Alexander a cena, si dichiarò entusiasta del suo lavoro e, bevendo caffè e brandy davanti al camino del suo studio, gli confidò alcuni segreti politici e gli fece qualche rivelazione. Il punto era, Alexander doveva rendersene conto, che tutto accadeva nel momento più propizio. L'avvio di una sottoscrizione, l'annuncio della donazione, lo statuto reale nell'anno dell'incoronazione, tutto poteva coincidere ed essere celebrato, tra le altre cose, con la messa in scena del testo teatrale di Alexander, perfetto in simili circostanze. L'avrebbero rappresentato nelle sere d'estate proprio sulla terrazza di Longroyston. Non era una rievocazione storica, precisò Alexander. No, rispose Crow, era un'opera d'arte che con un po' di fortuna avrebbe avuto il privilegio di ottenere giustizia. E lui era la persona giusta per metterla in scena. Alexander lo avrebbe visto. I tempi rapidi dell'organizzazione lasciarono Alexander senza fiato. Poco dopo fu invitato un incontro con i membri del comitato del festival, di nuovo a Longroyston. Era composto dal cappellano del vescovo, l'uomo della tesoreria generale, la signorina Mott dei corsi per adulti, il signor Barker, consigliere comunale di Calverley, Crow, naturalmente, e Benjamin Lodge, il regista londinese. Il dramma di Alexander si era ulteriormente consolidato. Ognuno dei presenti aveva una copia del testo e tutti si congratularono con lui per l'intelligenza e l'attualità della sua opera. Alexander non seppe mai con certezza quando o chi avesse formalmente deciso l'allestimento del suo dramma. Fu solo vagamente infastidito da Benjamin Lodge, che uno o due volte parlò di rievocazione storica e disse che aveva bisogno di qualche taglio. Lodge era un uomo greve e taciturno, in un mostruoso maglione color senape, con i capelli neri che cominciavano a diradarsi, compensati però da un enorme e morbido cespuglio di barba. Quanto a Crow, con i suoi 60 anni, aveva una faccia rubizza da cherubino e qualcosa di incompiuto nell'espressione da ragazzino. Si era un po' arrotondato con l'età, ma senza appesantirsi. Lodge e Alexander si stavano ancora godendo un'impresa da whisky e reciproci complimenti, quando Crow trascinò via Alexander dicendo che l'avrebbe accompagnato a casa in macchina, a Blatchford Ride. Crow guidava una Bentley vecchiotta, piuttosto spedito. Condusse Alexander attraverso la campagna, tra muretti a secco e campi accidentati ai limiti della brughiera, scendendo nella valle di Blatchford e poi su per il lungo viale di tigli della scuola. Fermò l'auto proprio davanti al rosso porticato gotico dell'ingresso. Dovrebbe essere soddisfatto di questa giornata di lavoro e di se stesso. Lo sono, spero che lo sia anche lei. Non potrò mai ringraziarla. Benjamin la preoccupa, lo so, ma non è il caso. Non ne farà una rievocazione storica, per due ragioni. Uno, non glielo permetterò. Due, non è uno stupido. Vuole solo essere sicuro di poter fare la sua parte di lavoro creativo, strapazzare un po' il testo, finché non gli avrà dato la sua impronta. Lei se n'è accorta, è naturale. Ma di me può fidarsi, lo terrò d'occhio. E deve tenerlo d'occhio anche lei. Le lasceranno un po' di tempo libero in questo posto orrendo? Alzò il capo verso la lugubre arcata che vi sopportava. Orrenda follia del mio antenato. Per quanto tempo ha intenzione di restare in questo posto? Non lo so, insegnare mi piace, ma non scarterei l'idea di scrivere a tempo pieno. D'accordo, allora si cerchi una scuola di prim'ordine, con un capo dipartimento di prim'ordine. Il suo uomo è notevole, ma insopportabile. Oh, io prendo le cose come vengono. E lui è di prim'ordine, a modo suo. Andiamo d'accordissimo. Lei mi sorprende, disse Crow. E cosa dirà di questa impresa? Il solo pensiero mi terrorizza. Diciamo che non ha un debole per il dramma in versi. Né per me, aggiunse Crow, gliel'assicuro, né per l'università, a quanto so, almeno per come la si sta progettando. Gli parlerò. Che coraggio! Devo pur farlo, le pare? Io non lo farei, rispose Crow. Lascerei perdere, ma so che lei è diverso, perciò in bocca al lupo. Mentre la Bentley faceva dietro front sollevando il ghiaino, Alexander, ancora frastornato, si diresse verso la scuola. La scuola di Blessford Ride era privata, progressista e non discriminante. Era stata fondata nel 1880 da Matthew Crow, bisnonno dell'attuale Crow, che aveva fatto fortuna grazie al commercio della lana ed era stato un illuminato studioso dilettante di mitologia comparata. Nel corso della vita del primo Crow, la scuola aveva brevemente brillato solo per la sua eccentricità, il che forse spiega perché due dei suoi sei figli erano diventati predicatori itineranti e un altro direttore di prigione. Dei restanti tre, uno aveva ereditato il commercio della lana, uno aveva insegnato letteratura classica al college, diventando poi archivista e presidente della società storica e topografica di Blessford, l'ultimo era morto giovane. Matthew Crow, che era stato mandato a Eton e a Oxford, era un discendente dell'archivista, il cui fratello maggiore era morto senza eredi. Blessford Ride non aveva ottenuto se non un moderato successo. Geograficamente era una desolazione, sperduta tra le brughiere dello Yorkshire a chilometri di distanza da tutto, tranne che dalla modesta città cattedrale di Calverley, che non aveva né il clima civile di York né la grandiosa indipendenza di Durham, ed era eclissata da entrambe. Storicamente era stata incapace di diplomazia. Eccentrica quando il conformismo era una forza potente, la scuola si era fatta più conformista e cauta per via delle difficoltà finanziarie e di una direzione più moderata, in tempi in cui la sua peculiarità avrebbe potuto garantirle un certo prestigio. Adesso veniva raccomandata ai genitori che non desideravano che i figli fossero obbligati a una educazione militaresca, a quelli cui non dispiaceva una sottile derisione della bandiera e dell'impero, e a chi viveva nelle vicinanze. Era ugualmente raccomandata ai genitori che non amavano sporcizia, sandali, sigarette, alcol, la libertà sessuale o un eccesso di educazione sessuale, il lassismo, la scuola di vita e l'intellettualismo. Era frequentata per lo più da bambini della media borghesia, i cui genitori, frugali e coscienziosi, avevano sperato e creduto nella possibilità della sufficienza agli esami di ammissione e alla fine non se l'erano sentita di esporli alle orde ululanti della locale scuola superiore. C'erano borse di studio del fondatore per alcune minoranze sganciate dal cristianesimo, ebrei, epilettici, orfani, figli di operai tessili, ragazzi di famiglie troppo numerose. Il corpo insegnante era composto da tre tipi di persone: giovanotti brillanti che venivano in cerca di libertà accademica e morale, restavano qualche tempo, poi passavano altrove o al giornalismo; giovanotti brillanti che venivano e per qualche ragione non se ne andavano più, invecchiando a poco in modo impercettibile; e Bill Potter, che era lì da quasi 20 anni. La scuola era la solita scuola moderatamente liberale. A ciascuno il suo, né carne né pesce, di second'ordine. Bill Potter era il capo del dipartimento di Alexander. Era da tutti considerato un docente di prim'ordine, ispirato, tenace e feroce. Rispettato dalle commissioni per le selezioni universitarie, temuto dal preside. Sebbene gli fosse stata offerta la direzione di uno dei pensionati, rifiutava di fare altro all'infuori dell'insegnamento e viveva ancora nella casetta di mattoni rossi in cui si era inizialmente installato con la moglie. Una di una schiera di casette costruite per gli insegnanti sposati, un po' fuori mano, al limite del campo di rugby più distante, il campo lontano. Veniva chiamata Master's Row, via dei maestri. Alexander decise di far visita a Bill Potter non senza una certa apprensione. Bill era per molti aspetti una reincarnazione dello spirito originario di Blessford Ride. Professava la poderosa morale agnostica di Sigwick, George Eliot e del primo Matthew Crow. Lavorava accanitamente a una sua personale versione della cultura popolare di Ruskin e Morris, con un austero rispetto per gli operai veri, le loro esistenze e interessi. Il vigore che animava ogni aspetto della vita culturale nel 1953 era in larga parte suo. Bill Potter riusciva a imprimere alla ricerca le caratteristiche di un lavoro prezioso, non puramente scolastico, e nello stesso tempo a dare alla ricerca e alla comunità che la conduceva un senso di identità. Era un sorvegliante di schiavi, ma sapeva anche ascoltare. Sapeva dare a una donna incapace di esprimersi le indicazioni che le consentivano di raddrizzare le sue frasi sconnesse, ottenendo uno stile piacevole e originale. All'arrivo di Alexander aveva tentato, senza troppa convinzione, di coinvolgerlo nelle attività locali. Ma Alexander, abbastanza dotato con i ragazzi, non se la cavava altrettanto bene con gli adulti. E già allora si considerava uno scrittore metropolitano, un professionista nel rione, e riconosceva con un misto di arroganza e di umiltà di non poter aggiungere alcunché all'energico sforzo di quella comunità provinciale di dilettanti. Se ci avesse provato, si sarebbe forse cacciato nei guai, visto che le priorità letterarie di Bill erano diverse dalle sue. Bill comunque accettò la sua mancanza di entusiasmo con sorprendente pacatezza. Non era bravo a delegare potere o autorità, e Alexander, che si considerava prima di tutto un poeta e poi un insegnante, non desiderava né l'uno né l'altra. Bill ispirava una fanatica devozione alla maggior parte dei bravi studenti e ad alcuni cattivi. Alexander, malgrado la sua bellezza fuori del comune e l'entusiasmo per la materia, no. Era di una timidezza e modestia autentiche, e forse Bill lo prese in simpatia proprio per questo. Nonostante tutto, mentre al crepuscolo Alexander varcava le mura della scuola, la gioia solitaria che era stata in agguato per tutto il giorno lo invase. Good times for a change. Al di là del giardino antistante la scuola, oltre le lunghe serre che in primavera sarebbero state ricolme di pomodori poco costosi, una passeggiata porta chiodata dava su un sentiero muschioso tra due alti muri. Il sentiero correva fino a una passerella che scavalcava la ferrovia. Dall'altra parte c'era il campo lontano. Dietro il muro a sinistra c'era il giardino dei maestri, protetto da una serie di scintillanti triangoli di vetro ficcati nel cemento, pallidi, verde bottiglia, glaciali. All'interno quel luogo proibito era ben tenuto, quadrato e spento, con un cedro striminzito e al fondo una piattaforma lastricata che sosteneva una meridiana. Faceva pensare a quei monumenti ai caduti dove gli anziani siedono a riscaldarsi al sole. Lì, l'estate precedente, Alexander aveva interpretato il ruolo del protagonista in un allestimento scolastico della Signora non è da bruciare, occasione per un morigerato baccanale. Sembrava passato un secolo. Alexander si fermò con le mani sul parapetto della passerella. Si sentiva pienamente felice. Si sentiva completo. Ebbe lo strano pensiero di essere intelligente quanto bastava a comprendere tutto. Questa sensazione gli derivava dal fatto che ora il suo dramma era altro da lui, gli era stato sottratto, ma in compenso era libero. Di solito considerava quei campi sportivi cindati anche alla scuola come luoghi di prigionia. Appena arrivato, aveva scritto ai vecchi amici di Oxford, facendosi beffe della miserabile bruttezza di quel posto confinato al nord. Poi aveva smesso di farlo, temendo che il solo parlarne fosse un modo di ammettere che quel posto imprigionava anche lui. Qualche volta aveva detto agli abitanti di Bletsford Ride «Sto scrivendo un dramma» e quelli avevano risposto «Davvero?» oppure «Di cosa parla?» Ma in quei momenti il suo dramma gli pareva ancora esile e confuso, una farneticazione della mente. Adesso viveva di vita propria, era riprodotto, letto, e lui, separato dalla sua opera, si sentiva separato anche da Bletsford Ride. E così, separato, riusciva a nutrire un interesse benevolo e curioso per quel posto. Osservò quel campo desolato, godendoselo con arroganza per quello che era, e allora lo vide. La luce serale, sempre più debole, ispessiva ombre e contorni, anneriva la rete della recinzione, spegneva quello che restava dei colori nell'erba fangosa. Sentì sotto di sé il fremito e la vibrazione della passerella che annunciava il passaggio di un treno. Rimase a guardare con una gaiezza curiosa. Il treno sopraggiunse nero e sinuoso, poi tonante, irruento contro e sotto di lui, lavorio di pistoni, ruote martellanti, avvolgendolo in uno spusto di scintille e vapore acre, per poi allontanarsi con fragore. Lasciò la passerella. La terra fremeva ancora, come se quella cosa avesse aperto un solco nel terreno, come fanno i vascelli nel mare. Strisce di vapore si allungarono nel cielo lacerandosi, svanendo nel grigio sopraggiungere dell'oscurità. C'era qualcuno in piedi vicino allo stagno. Lo stagno dell'Istituto di Biologia, scavato ai tempi della fondazione della scuola, era adesso completamente abbandonato. La figura in riva allo stagno si curvava in modo bizzarro sulla superficie e smuoveva le acque con un lungo bastone. Avvicinandosi, Alexander riconobbe Marcus Potter. Marcus era il più giovane dei figli di Bill e l'unico maschio. Frequentava gratuitamente la scuola e ufficialmente avrebbe dovuto diplomarsi in capo a 2 anni. Nessuno sapeva molto di lui. C'era un generale desiderio di trattarlo in modo normale, che in pratica significava non interrogarlo mai e lasciare che si arrangiasse il più possibile da solo. Talora Alexander si rendeva conto di parlare al ragazzo con tono innaturalmente scialbo e sapeva di non essere il solo. Ma ciò era possibile perché Marcus, al contrario di Bill, era una persona innaturalmente scialba. Bill mostrava di credere che Marcus avesse doti fuori dal comune, ma a testimoniarle c'erano ben pochi fatti. Seguiva i corsi di geografia, storia e scienze economiche e il suo lavoro veniva definito soddisfacente e privo di originalità. Soddisfacente ricopre un'ampia gamma di prestazioni, da eccellente a piuttosto scarso. Durante le lezioni di Alexander, ad esempio, Marcus Potter era solito lasciare le frasi a metà e sorprendersi quando glielo si faceva notare. In classe appariva taciturno e affaticato, e Alexander si era fatto l'idea che fosse uno di quelli che devono fare all'inizio un tale sforzo di attenzione che poi in pratica non riescono a sentire niente, paralizzati nella concentrazione. Da bambino comunque aveva il dono sconcertante dell'intuizione matematica e aveva anche l'orecchio assoluto. A 14 anni il suo talento in matematica lo aveva misteriosamente abbandonato. L'orecchio assoluto restava, ma il ragazzo non mostrava grande interesse per la musica. Cantava nel coro e suonava la viola in modo diligente e inespressivo. I colleghi di Bill, quasi del tutto privo di orecchio musicale, sapevano quanto andasse orgoglioso dell'insolita dote del figlio, in cui vedeva il segno di futuri successi scolastici ancora più straordinari di quelli già ottenuti in modo più convenzionale dalle 2 sorelle maggiori. Mentre Alexander attraversava il prato, Marcus si mise carponi poggiando la faccia sul bordo lastricato dello stagno. Alexander cambiò direzione segnalando la sua presenza con svariati rumori, tossì, batté i piedi. Il ragazzo scattò come una molla, tremando. Aveva la faccia sporca di fango. Risistemò sul naso gli occhiali, montatura rotonda della mutua, che si erano spostati di lato per via di quella manovra stravagante. Era un ragazzo gracile per la sua età, magro, con un volto lungo e pallido e una massa di sottili capelli biondi, opachi e senza nervo. Indossava pantaloni di flanella e una giacca di tweed di un azzurro sbiadito, troppo piccola per lui. «Tutto bene?» chiese Alexander. Marcus lo fissava. «Stavo andando da tuo padre, vai a casa anche tu? Sicuro che sia tutto a posto?» «No». Alexander non riusciva a pensare nessun'altra domanda. Tremava tutto, la terra. Era il treno, succede sempre. «Non così. Non importa, adesso sto bene». C'era qualcosa di sgradevole in Marcus Potter. Alexander sapeva di dover indagare oltre e non desiderava farlo. «Sto bene», ripeté il ragazzo con uno dei suoi toni più rispettosi, da robot. Alexander era abbastanza sveglio da capire che con ciò il ragazzo intendeva chiudere la conversazione, ma aggiunse solo «Facciamo la strada insieme?» Marcus annuì e si diressero in silenzio verso la breve schiera di case illuminate al limite del campo. Marcus Potter era cresciuto su quei campi da gioco. Durante le vacanze ne era spesso l'unico frequentatore. Quando era bambino, quei campi lo circondavano e lui sguazzava nel fango i tre ciuffi d'erba, vedendoci Ypres e la Somme, vedendoci trincee, rifugi e terre di nessuno. Faceva un gioco che lui chiamava dilatarsi. Cominciava con un'estensione deliberata del suo campo visivo, fino a che, per qualche scherzo di percezione, riusciva a vedere contemporaneamente dai quattro angoli del campo, dall'estremità dei pali della porta, dalla sommità della recinzione metallica. Non era la sensazione di contenere quanto vedeva, piuttosto osservava non da un punto privilegiato o tutto in una volta. Con inarrivabile simultaneità individuava una stenofilla berberis in basso a sinistra, il centro fangoso del campo e lo stagno lontano sulla destra. Presto imparò a essere grato alla geometria che gli permetteva di aggrapparsi e avanzare laddove nodose zolle di erbe e concrezioni di fango lo ostacolavano. Linee tirate a calce interrotte, il tracciato dei giochi invernali che intersecava quello dei giochi estivi, cerchi, linee parallele, punti fissi che disegnavano una mappa su quella distanza di fango impetuoso e ondeggiante, erano linee lungo le quali avanzare carponi, un reticolato per la salvezza. Non faceva quel gioco da anni, né ci aveva più pensato. Tuttavia, da qualche tempo, aveva ricominciato per effetto di una nuova forza compulsiva, ma non ci provava più gusto. Era come una natura, un bisogno che si impadroniva di lui all'improvviso, sempre più urgente, proprio perché aveva deciso di astenersene e perciò si era rilassato. E allora ecco che ci pensava. Pensava di farlo e basta, in fretta, e subito dopo ricominciare a vivere. Questa volta aveva creduto di poter attraversare il campo senza cedere alla tentazione. Avrebbe camminato sulle linee e così sarebbe arrivato dall'altra parte. L'inaspettato passaggio del treno lo aveva fatto uscire di sé senza dargli il tempo per nessuna delle manovre visive e corporee preliminari necessarie a confortarlo e forse a sopravvivere. Adesso aveva un freddo cane, non riusciva a ricordare con esattezza cosa fosse accaduto. Ogni volta si ritrovava completamente gelato dopo. Trascinava i piedi sull'erba, cercando di restare al sicuro sulle linee bianche. Passarono sotto gli alti pali bianchi della porta di rugby, che da piccolo credeva destinati al salto in alto di esseri superiori. Aprirono il cancelletto e risalirono il viale del giardino. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel giardino di Antonia Bayat, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.